piace. Di Raffaella Calandra. Prima i turisti vengono a Palmira per vedere la rovina di Palmira. Adesso che c'è? La rovina della rovina di Palmira. Che c'è? Non c'è il potere di vedere Palmira o ne quella importanti monumenti di Palmira. Non c'è. Non immagino Palmira o ne quella monumenti. Non immagino. È un dolore troppo grande. Grandissimo, grandissimo. Davanti alle foto satellitari di Palmira, la voce di Mohamed Saleh si incrina di commozione e si gonfia di rabbia. Ampi buchi neri si vedono ora al posto di gloriosi colonnati e degli imponenti archi di epoca romana. Mohamed Saleh è stato l'ultimo direttore per il turismo della città siriana, divenuta simbolo delle distruzioni del califfato e cuore dei traffici illeciti di opere d'arte. Anche così ora l'ISIS si finanzia con gli scavi clandestini, almeno 300 quelli già censiti. E anche per questo gli archeologi e i custodi in generale della storia siriana sono tra quelli che ora rischiano di più. 15 almeno quelli già uccisi, e chi è sopravvissuto lotta ogni giorno per salvare una statua, un'anfora, un'iscrizione, per nascondere un mosaico, per salvare insomma pezzi di storia. E da questi Monuments Men siriani parte questa puntata di Storiacce sotto le macerie di Palmira. It's very hard, not just for the cultural heritage, but also for the population. Arriva distorta via Skype da Damasco, ma arriva chiara allo stesso tempo la voce di Mamoun Abdulkarim, il curatore del museo più triste al mondo, come è stato ribattezzato tra gli accademici. In piena guerra il governo a lui ha chiesto di diventare il direttore generale delle antichità di Damasco, infatti. E così si è tramutato nel principale paladino della storia siriana, distrutta ora da una parte dalle bombe o dagli spari, come ad Aleppo, racconta Abdulkarim, dall'altra decimata dall'abbattimento dei monumenti per motivi ideologici, come al museo di Mosul o ai templi di Palmira, elenca. E poi ancora erosa dagli scavi clandestini di sostenitori dello Stato Islamico e di predoni di ogni genere. È l'identità di uno dei paesi più importanti della civiltà classica ad essere ora sotto un assedio senza precedenti. E chi è ancora in Siria, come questo elegante professore universitario, sente su di sé tutta la responsabilità di dover mettere in salvo le loro antiche pietre. Dai giovani studenti fino alla direttrice del museo di Homs, che di persona si è messa alla guida di una colonna di camion, decine di valorosi Monuments Men rischiano così ogni giorno la vita per conservare la storia. E a loro soprattutto va il pensiero e lo sforzo di Munir Bushenaki, direttore per l'UNESCO di un centro specializzato nelle aree di crisi del mondo arabo. Mamoun Abdulkarim ha potuto far sfuggire dal Palmira, dal museo, piccoli oggetti. Ha potuto salvare probabilmente il 70-80% degli oggetti del museo di Palmira. Evidentemente le grandi statue, il leone che era la statua all'ingresso del museo, gli oggetti pesanti non sono stati recuperati. Questo gruppo del cosiddetto Stato Islamico ha deciso di usare la distruzione dei monumenti come una pubblicità. In che modo e dove stanno portando queste opere d'arte? Come riescono a sottrarle? Fanno quello che possono fare per assicurare la situazione. Per esempio, Marat Noaman è un museo di mosaici che era uno dei più belli musei. Il direttore del museo ha potuto mettere un po' di sabbia, ha ottenuto un po' di denaro per fare la copertura dei mosaici. Dunque fanno qualcosa per cercare di mettere in salute, diciamo, gli oggetti. Cioè li nascondono, cercano di sotterrarli e di nasconderli. Ma quello che l'unico modo che il direttore generale Mamoun Abdulkarim ha riuscito con i suoi colleghi è di portare gli oggetti a Damasco, e ci dice a noi che le mette in sicurezza in posti segreti. Ma come li portano? Con mezzi privati, ma anche con elicotteri dell'esercito. In questo modo 300.000 reperti, piccoli grandi oggetti che raccontano del passato, sono stati sottratti al mercato nero dell'antiquariato e alla furia dell'ISIS, che ha trasformato il teatro di Palmira nel proscenio delle proprie esecuzioni di massa, che non ha esitato ad uccidere chiunque non volesse cedere loro quei templi, come Khaled el-Assad, ex responsabile del sito di Palmira, o come il guardiano di Deir ez-Zor, decapitato dall'ISIS, o come ancora, riferisce il direttore delle antichità di Damasco, altri due archeologi uccisi dai cecchini. Ma l'opera di questi valorosi Monuments Men è fondamentale ora, come non mai, e di loro parla ora con un buon italiano contaminato sia pur dal tedesco, lingua del suo nuovo paese, di loro parla con una riconoscenza infinita Mohamed Saleh, l'ultimo direttore per il turismo di Palmira. Loro uccidono nostra storia, nostra identità. Signor Khaled Assad, lui logo di Palmira, uccidono tutte le persone che hanno cultura, hanno educazione, hanno qualcosa avete fatto per la Siria. E lui, il professor Khaled Assad, era un difensore della storia di Palmira. Una persona grande. Quando ha dovuto lasciare la Siria e quando ha dovuto lasciare la sua Palmira? Palmira prima, non come Palmira adesso. Quando ho lasciato Palmira, perché io non lo voglio vedere Palmira che è distrutta, non voglio vedere Palmira senza il tempio di Baal, non voglio vedere Palmira senza il tempio di Baal Shamin, non voglio vedere Palmira senza l'Arch Triumph. Palmira adesso sotto controllo ISIS, identità. Lei quando ha lasciato Palmira? Ho lasciato Palmira da un anno. Ho lasciato Palmira per i miei bambini, ho lasciato Palmira perché io non volevo i miei bambini vedere quella criminali uccidono la gente. Non volevo lasciare Palmira, ma i bambini mi hanno fatto di lasciare Palmira quello. Che cosa rappresenta, che cosa significa per lei avere costantemente notizie su ulteriori distruzioni a Palmira? Immagini che ogni giorno vedo quella rovine. Quando parlo di Palmira non ce l'ho il senso buono di parlare. Mio padre è nato al tempio di Baal. C'è una relazione forte per la gente di Palmira con le rovine. Quando vogliamo incontrare uno o l'altro andiamo alle rovine. Io parlo come un cittadino di Palmira adesso. Io non posso vedere Palmira così. Un filo diretto con gli archeologi siriani Paolo Mattia, direttore della missione archeologica dell'Università La Sapienza, scopritore del sito di Ebla. Lui in Siria ha scavato per oltre 50 anni, fino a che insomma non è stato possibile più rimanere laggiù. E lui ora è tra quanti mette in guardia anche dai danni che il saccheggio clandestino dei siti archeologici siriani può arrecare alla cultura mondiale. Perché una cosa è certa, una situazione del genere fa gola a chi pensa di arricchirsi con le opere d'arte o di finanziarsi anche con queste, come fa il Califfato. Ed è anche per questo che la resistenza degli archeologi siriani ha qualcosa di eroico, nel senso classico del termine, di qualcosa cioè di fuori dal comune. Funzionari e guardiani della Direzione Generale delle Antichità di Damasco hanno perso la vita in 15 fino a poche settimane fa e tutta la loro attività di protezione, di tentativo disperato di protezione in luoghi non più controllati dalle forze lealiste, diciamo, è uno sforzo disperato perché ogni volta è a rischio della vita, naturalmente, dato che l'ISIS, ma anche Al-Qaeda, Nusra, di fatto proteggono gli scavi clandestini. Chi si oppone a questo o chi cerca di proteggere i musei è a rischio permanente della vita giorno per giorno, e dico 15 funzionari non è cosa da poco. Come stanno cercando di sottrarli, di nascondere queste opere? Dunque, sono state sicuramente salvate numerosissime opere, per fare degli esempi, al Museo dei Rezor vicino alla, sull'Eufrate, nella zona orientale del paese, e dallo stesso Museo Archeologico di Palmira, trasportando la grandissima maggioranza delle opere conservate in questi musei a Damasco o in zone, diciamo, fortemente protette. Ma c'è un'altra insidia, come dicevamo. Oltre alle distruzioni e alle uccisioni, ci sono gli scavi clandestini favoriti dal califfato, che anche così vuole finanziarsi. E sono migliaia e molto importanti le opere che potrebbero essere rivendute dalla Siria. L'ISIS e i predoni di ogni genere spingono in questa direzione, ma è stato fatto anche un accordo con le principali case d'asta al mondo per cercare di evitarlo. E già sul mercato nero, però, delle opere archeologiche sono esplose tavolette cuneiformi e reperti di chiara provenienza siriana, perché anche così si fa la guerra, distruggendo o vendendo l'identità e la storia di un paese. E da qui allora ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presento Storiacce. Prima i turisti vengono a Palmira per vedere la rovina di Palmira. Adesso che c'è? La rovina della rovina di Palmira. Che c'è? Da città magica, da scrigno di bellezza e storia, Palmira è diventata una città di fantasmi, dei morti ammazzati davanti ai suoi colonnati per mano di killer, a volte poco più di bambini, e delle macerie delle sue antiche vestigia. È il passato in Siria che ora viene distrutto, come le vite di migliaia di persone, o viene saccheggiato nei tantissimi scavi clandestini che ultimamente stanno aumentando. Ed è questa ora la principale insidia ad uno dei patrimoni archeologici più importanti al mondo. Oltre alla distruzione dei templi, c'è infatti il furto sistematico e costante di reperti di grande bellezza e valore, per questo molto richiesti anche nel mercato nero delle opere d'arte. E dopo Apamea, una delle grandi città imperiali romane, gli scavi illeciti sono iniziati anche ad Ebla e Dura Europos, e il danno in questi casi può essere ancora più profondo, anche se più silenzioso delle distruzioni, come ben sa e come ben teme Mohamed Saleh, che di Palmira è stato l'ultimo direttore turistico. Non lasciano nessuno che andare fuori, non lasciano nessuno di sotto 40 anni di andare fuori. Non c'è l'acqua, non c'è l'elettricità, non c'è niente a Palmira adesso. Cioè, da che gestivate flussi di turisti che arrivavano a vedere la più grande città antica romana? Avete visto cosa? Piano piano venir meno i turisti, la normalità e un po', come dire, venir meno il vostro mondo? Prima, all'inizio della problema o la guerra, i turisti cominciano a cancellare. L'ultimo turista arriva a Palmira all'end di 2011. Palmira non c'è nessuno perché è pericoloso. Ecco, in questo momento però, oltre alla distruzione anche della città di Palmira, c'è anche quest'altro problema, che è il mercato nero di tutte le opere archeologiche. Loro danno il permesso di tutti per scavare, per vendere, per tutti, danno il permesso di vendere questi. Gli esperti lo hanno notato subito in questi mesi. I reperti di provenienza siriana sono già aumentati nel mercato nero, fatto di trafficanti di opere d'arte, di predoni senza scrupolo, di avidi antiquari e in passato pure di spregiudicate case d'asta. Ma ora un accordo, almeno con le principali, De Sotheby's a Christie's, cerca di togliere l'acqua a questo circuito, documentato anche da indagini della CIA, a quanto conferma il professor Paolo Mattia, che in Siria scava da 50 anni. Ci sono sicuramente grandi siti che sono stati sicuramente danneggiati in maniera molto grave. Un caso esemplare per il mondo classico è Apamea, la cui superficie è larghissimamente, credo l'80%, sforacchiata. Altri siti famosi invece del mondo preclassico, come Mari presso la frontiera tra la Siria e l'Iraq hanno subito dei danni sicuramente molto gravi. Alla distruzione si unisce anche un fenomeno altrettanto insidioso ma più sotterraneo, che è quello degli scavi clandestini e del furto delle grandi opere per andare poi a finanziare, questo è il sospetto, anche proprio le attività terroristiche dell'ISIS. Quello che lei ha detto è assolutamente documentato anche da indagini fatte, diciamo, pure dai servizi segreti americani alla frontiera con la pseudo frontiera con la Turchia, nel senso che sicuramente l'ISIS Daesh ha questo aspetto paradossale, duplice, ambiguo: da un lato di distruggere le opere, dall'altro di curarsi anche di non solo di permettere che vengano scavate o vendute, ma di favorire questo commercio. Che cosa viene non distrutto ma scavato per essere messo nei circuiti internazionali? Sono cose naturalmente delle più varie, che possono andare da sculture d'età ellenistica e romana a opere invece del tempo più antico. Il commercio antiquario è aumentato enormemente la quantità di tavolette cuneiformi del mondo babilonese e assiro, ma anche dell'area siriana naturalmente. E su questo è sicuro che ci sono un incremento molto forte sul mercato internazionale. Contro la razzia della storia siriana, l'UNESCO ha deciso l'invio dei caschi blu, come già avvenuto in passato, e contemporaneamente sigla un accordo con l'Interpol per segnalare le opere che potrebbero provenire da scavi clandestini siriani, elenca Munir Bushenaki, direttore per l'UNESCO delle aree di crisi del mondo arabo. Una delle risposte concrete sul traffico illecito è di nuovo l'esempio italiano. Si era fatto anche un accordo con le grandi case d'asta? Sì, prima abbiamo firmato un accordo con la Polizia Internazionale, con Interpol. Abbiamo avuto con noi l'organismo internazionale delle dogane, ma per la parte pratica, per la parte operativa, il comando dei carabinieri, perché lui ci ha aiutato a formare in Cambogia, in Iraq, in Afghanistan, la formazione dei poliziotti che fa la lotta contro il traffico. Esatto. E ora, per evitare che questo saccheggio anche delle opere siriane prosegua e che quelle che non sono distrutte finiscono appunto nel mercato nero, venduto chissà dove, che cosa appunto, che dati avete su questo, che allora, informazioni avete su questo? Quello che non sappiamo, che quello che viene dei scavi illeciti, che sono condotti dai gruppi così come mafia, che vendono gli oggetti sul mercato nero, perché le grandi case d'arte, le grandi ditte come Sotheby's, Christie's, adesso sono con noi. Abbiamo firmato un codice etico per fare in modo che loro non vendono un pezzo che non ha un'identità e che loro sanno da dove viene. Palmira, l'abbiamo detto, luogo magico e leggendario, luogo del mito. E allora, come sempre a questo punto, la linea va alle mitiche storiacce e a Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e autore per Sonsogno di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. Uno dei templi più venerandi di Palmira era il tempio di Baal, antico signore del cielo e del fulmine. Lo chiamavano il Partenone di Palmira. Dobbiamo usare i verbi al passato, perché il tempio di Baal non c'è più, è stato distrutto quest'estate dall'ISIS. È stata davvero, e non è solo retorica, la distruzione di un simbolo, il simbolo di un'epoca remota in cui la religione, piuttosto che dividere, univa. Quello stesso Dio che i siriaci, i fenici adoravano come Baal, era venerato anche dai greci e dai romani, che lo identificavano con le loro divinità supreme, con i loro signori del cielo e del fulmine, Zeus o Giove. Nei tempi in cui Palmira fioriva come gemma del deserto, grande città carovaniera, e la sua leggendaria regina Zenobia sfidava persino gli imperatori di Roma, il Medio Oriente era una terra in cui le religioni e le divinità si mescolavano. I culti di fenici, arabi, siriaci, greci, romani, egizi non si contrapponevano, ma si contaminavano. In un mondo politeistico gli dei erano abituati a convivere. Iside e Osiride erano venerati in tutto il Mediterraneo. Astarte, Afrodite, Venere erano nomi diversi della stessa divinità. Non ci potevano essere i kamikaze di Zeus. Certo, la gente si ammazzava anche allora, il sangue scorreva, ma l'idea di una guerra fatta in nome di un dio al mondo pagano sarebbe apparsa insensata. E forse bisognerebbe recuperare un po' della saggezza del politeismo antico. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it, dove trovate anche una pagina dedicata alle vostre storiacce. Scriveteci per segnalare le vicende che volete portare alla nostra attenzione. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog. Su Twitter, invece, l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.